is the dance. On the Pokemon Advance. You got a chance. With the Pokemon Advance. This is the dance of the Pokemon Advance. You got a chance. With the Pokemon Advance. This is the dance of the Pokemon Advance. You got a chance. With the Pokemon Advance. Io ricomincio da qui, navigando nel mondo che scorgo laggiù. Giri e giri così, sempre più vagabondo ma con Pikachu. This is the dance of the Pokémon Advance. You got a chance with the Pokémon Advance. Combatterò e vincerò, rincorrendo quel sogno che ho dentro di me. Ci sei vicino oramai, prendi quando hai bisogno la sfera poké. Laggiù assieme a Pikachu, laggiù. Come on and dance the Pokémon Advance. Guarda sempre con te la tua sfera poké. If you can catch them all with the Pokémon Ball. Lancia come sai tu, sali sempre più su. Ogni mossa una chance per acchiappare nuovi Pokémon Advance. Assieme a Pikachu, laggiù. Come on and dance the Pokémon Advance. Guarda sempre con te la tua sfera poké. If you can catch them all with the Pokémon Ball. Lancia come sai tu, sali.